ci fu una sorta di riflusso di queste canzoni, per poi ripresentarsi agli inizi del 93. Ecco perché il titolo è Da Contessa alla 99 Posse, Assalti Frontali e tutta una serie di realtà, diciamo, musicali che hanno riproposto anche con il fenomeno politico di questo nuovo movimento politico di scienze sociali a riproporre il circuito musicale di idee e di rivolta. Ecco, parliamo dalle idee di rivolta di Contessa a Curucuru Guaglion, ecco, per sintetizzarla. E prima di intraprenderci in questo jukebox antagonista, perché all'epoca c'erano i jukebox antagonisti, i jukebox che si sentivano le musiche, compresa anche, ecco, per dire, luglio, agosto, settembre nero, diciamo, degli Area, fu, diciamo, stette per un mese nella prima classifica di Parade, e quella luglio, agosto, settembre nero è la sigla di apertura di questa trasmissione di Contrappunto. Però prima di entrare in questa carrellata di musica o di jukebox antagonista, è chiaro che diciamo che a un livello, diciamo, di uno spessore legato a una fase storica importante di contropotere politico in Italia, parliamo, ecco perché le idee di rivolta. Le idee di rivolta, partiamo dalla nostra città, servirebbe riproporla, la rivolta, l'insorgere. Per dire, un'ultima notizia di oggi: nella nostra città è stato chiuso all'ospedale di Salerno, a Ruggi di Salerno, è stato chiuso il reparto di chirurgia toracica, cioè il pensionamento a causa del pensionamento del primario e anche dell'assenza quindi del medico, il che, diciamo, è una cosa vergognosa. Cioè, si chiude un reparto delicatissimo dove ci sono persone che debbono essere operate per tumori al polmone e via dicendo, vi sono persone che aspettavano da 3 mesi un'operazione delicatissima, ora è stato chiuso, per cui questi degenti si debbono trasferire tra Napoli e Potenza. È una vergogna, ecco le idee di rivolta, cioè, quando è che in questa città ci rivolgiamo, insorgiamo? È l'ultima notizia, e poi ecco, chiudiamo con queste che fanno veramente voltare lo stomaco, ci fanno deprimere rispetto a alcune cose, per poi, ecco, almeno quelle canzoni erano segni di vitalità, di un protagonismo della classe, degli sfruttati, degli operai, degli studenti, dei senza niente. L'ultima notizia, abbiamo anche legata alla vertenza dei lavoratori licenziati dalle cooperative sociali. Oggi si è avuto un incontro in prefettura, e come al solito, a nostro parere, è stata un'altra presa per il culo. E ora è chiaro che, ecco, le idee di rivolta, che questi operai debbono decidersi che per riscattare la propria dignità debbono ribellarsi in un modo non da miserabili, ma che debbono prendere una coscienza sociale. Ecco, ritorniamo alle idee di rivolta. Era un periodo, quella a cavallo tra la fine degli anni 60 e degli anni 70, per tutti gli anni 70, di, diciamo, un fermento culturale, quindi musicale, cinematografico, artistico, poetico, insomma, cioè, in quel periodo l'arte, la musica divenne un'arma, un fucile in mano a chi? Agli operai, ai proletari, ai giovani, agli studenti, insomma, che si appropriarono anche della cultura per ribellarsi, per rivoltarsi. E quelle, diciamo, è tanto vero che quel periodo era contrassegnato da che cosa? Dalla cultura antagonista che proveniva dalla fabbrica, dalla rabbia operaia, dalla rabbia sociale. E noi questa sera faremo un excursus, faremo l'excursus da, diciamo, contessa, ora cerchiamo di farla con la voce originale dell'epoca. Poi parleremo di Vandella Mea, altro compagno, parleremo poi di Pino Masi, altro compagno, cantautore, e che diciamo, crearono quelle forme creative, quelle forme musicali che poi erano cantati in tutti i cortei, erano cantati quando abbassava una chitarra, che molti compagni cominciarono, come devo dire, anche nelle piazze, dove ci si ritrovava. Io porto un piccolo esempio: era nel 1974, io da giovane studente mi recai a Torino, dove c'era la baracca di Via Fiesole. Ricordiamo una cosa: che da quella baracca ne nacque le più grandi lotte, come l'autorizzazione delle bollette della luce, le occupazioni di case. E quello era il primo centro sociale. La sera si ritrovavano là non solo per, diciamo, organizzare gli scioperi, le occupazioni, diciamo, era un quartiere proletario, via Fiesole, a fianco delle Vallette, dove si fece una grandissima occupazione di casa, di tutti i proletari, tutti i meridionali, che, diciamo, dalla fabbrica si rivoltò nel sociale, nell'acquisizione dei propri diritti. Insomma, era il periodo in cui nei ristoranti, si dice, uscivano le scritte: non si accettano, è vietato l'ingresso ai calabresi e agli animali, così come non si affittavano le case ai meridionali, e via dicendo. Diciamo, quella baracca, che era un container lunghetto, insomma, che stava proprio in questo quartiere, la sera era bella perché, diciamo, si ritrovavano compagni giovani operai, compagni operai, che, diciamo, socializzavano, e con una chitarra, diciamo, c'era chi sapeva suonare la chitarra, che oltre a beccarsi ed essere simpatico con le ragazze e con le compagne, vabbè, questa è una battutina, scusatemi, era una battuta, faccio autocritica, però si socializzava. E si cantavano queste canzoni, le canzoni di Vandella Mea, di Petrangeli, di Fabrizio De André, di tanti compagni, e che molti di questi compagni erano dei cantastorie, per dire. E poi, al di là di tutto, c'erano dei circuiti, per dire: c'era il circuito della Comune, di Dario Fo, Frank Rame, dove c'era anche il cantiere, il cantautore, il pastore, cioè, siciliano Ciccio Busacca, poi c'era ogni organizzazione aveva la sua rete culturale, artistica, musicale. Per dire, c'era gli ML, gli stalinisti, che avevano la Lega del Vento Rosso, poi c'era Lotta Continua, che fece redazioni di Lotta Continua con i dischi, i 45 giri di Lotta Continua. E poi c'era il Circolo La Comune, che, per dire, specialmente aveva una visione, diciamo, come dire, più ampia, diciamo, che dove c'erano artisti, musicisti, pittori e via dicendo. Quindi, diciamo, tramite questi tre, diciamo, compagni, di cui due sono morti, veramente recentemente è morto Pietrangeli, Ivan Della Me è morto, diciamo, ma non mi ricordo, comunque è morto nel 2009. E poi ci sta Claudio Lolli. Claudio Lolli, che, diciamo, ha cantato a pochi anni dalla sua morte all'asilo politico, al centro sociale. E lui, come devo dire, ce lo ricordiamo perché anche nella sua un po' solitaria, come devo dire, intimista, come devo dire, forma molto chiusa e via dicendo, che poi si scatenò con i compagni quando lo accompagnarono all'albergo, eccetera, eccetera. Però ecco, quando venne al concerto partecipavano dei compagni oppure persone più adulte che diciamo sulle sue canzoni hanno riflettuto, come devo dire, hanno rivisto una loro esistenzialità nella loro adolescenza. Ho visto anche degli Zingari Felici, insomma, questa diciamo vecchia piccola borghesia, cioè sono delle canzoni che diciamo comunque esprimevano ciò che in quel periodo di cambiamento c'era veramente, eravamo in atto della modifica dello stato delle cose presenti, nonostante le stragi, nonostante i tentativi di colpi di Stato, nonostante le repressioni, nonostante gli omicidi di compagni e via dicendo. Ecco, per dire un altro, Burra fu il primo disco Alan Sorrent, Vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India, Vorrei incontrarti fuori la fabbrica, cioè è chiaro che dopo Alan Sorrent è fatta, la fine che è fatta, insomma lasciamo perdere, però quell'Alan Sorrent, Vorrei incontrarti, era, diciamo, ecco, faceva parte anche di quella, diciamo, di quel canzoniere, diciamo, di quel libertario. Poi, ecco, diciamo, all'epoca c'era anche la divisione negli anni 70, tra diciamo, l'espressione culturale autoctona della sinistra, rivoluzionaria, e poi c'erano anche espressioni musicali legate al Partito Comunista, insomma, ricordiamo Giovanna Marini, questo era molto più legato al PC, diciamo. Vabbè, comunque era un'espressione di impegno culturale, insomma. E poi c'erano i canzonieri del Lazio, i canzonieri pisani, cioè, c'era il concetto che fare la musica, quindi suonare la musica, viversi la musica, viversi l'arte, viversi la cultura, entrando, è come, ecco, si entrava dentro la canzone, si entrava dentro il quadro, si entrava dentro la poesia, si entrava dentro tutto ciò che era l'espressione di un protagonismo, di una voglia di libertà, di una voglia, ecco, diciamo, di rivoluzione. Bisogno e voglia di rivoluzione, di buttare nel cesso il capitalismo, di buttare nel cesso i servi del capitalismo, e a partire dai fascisti, eccetera, eccetera. Quindi ecco, le idee di rivolta. E tanto è vero, ecco, come devo dire, questo è dedicato a tutti quei compagni che, come dire, vivono il problema dello sfruttamento nelle fabbriche, nei posti di lavoro, fuori dal lavoro, a quel senso di precarizzazione della vita. E sperando che magari ci seguano più compagni, che magari fanno lavori precari e che, come devo dire, non hanno quel senso di consapevolezza delle proprie convinzioni sociali, perché uno che lavora ha un grande potere, ed è importante riparlare del lavoro, riparlare dello sfruttamento, riparlare dei tempi dello sfruttamento. Questa è la cosa importante. Ora, vediamo di passare a Contessa classica di Paolo Pietrangeli. Un attimo di. Che roba contessa all'industria di Aldo, han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, fossate. questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo afferma, non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo afferma, sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso. Voi gente per bene, che pace cercate, la pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Allora, cari compagni, proseguiamo con questo jukebox antagonista, mi scusi i compagni, però è, diciamo, ironicamente, è un jukebox antagonista. Allora, ora proseguiamo con Ivan Della Mea. Ivan Della Mea, diciamo, per noi stava nel nostro cuore, perché, come devo dire, con la canzone O cara moglie, ecco sempre le idee di rivolta della rabbia. O cara moglie era una canzone che, diciamo, quando si occupava una fabbrica, è chiaro che magari là le occupazioni sapevi quando cominciavano, ma non sapevi quando finivano e come finivano. E questo è il dialogo che fa un operaio con il proprio figlio, che dice: guardate, diciamo, spiega e vuole spiegare il perché del perché magari non sta a casa, non si ritira a casa, perché sta facendo una lotta operaia, e perché si vince, si cambia il futuro, si migliora il futuro, diciamo, si ha più giustizia sociale. E poi, per dire, poi c'era anche un'altra canzone di Ivan Della Mea, che è la ballata per Ciriaco Saldutto. Chi era Ciriaco Saldutto? È un ragazzo di 15 anni che fu bocciato alla scuola e lui si imbiccò. Perché questo ragazzo si sentì rifiutato dalla sua città. E all'epoca molto, molto spesso, al 90%, la bocciatura era una selezione di classe, perché la bocciatura è sempre stata una questione di classe. E tanto è vero, ecco, apro una parentesi simpatica. Il collettivo, quando si andava alle magistrali, il nostro collettivo, il collettivo politico autonomo del magistrale, fece un volantino in solidarietà di un ragazzo giapponese che era stato bocciato e fece saltare la scuola con un aereo telecomandato. Noi facemmo il volantino e fece saltare la scuola. Cioè, guarda, a qualcuno può sembrare paradossale e compagnavare, però era anche diciamo il clima. Ivan Della Mea, poverino, è morto il 14 giugno a Milano del 2009. Lui, come devo dire, si trasferì da Lucca a Milano, e diciamo, lui era anche un cantastorie. Lui ha scritto Rinchera, che era dedicata in parte alla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio che è avvenuta del 74. Per dire, ecco, la Milano diciamo di Alfredo Biandelli, Paolo Pietrangeli, Giovanna Marino, cioè lui stava in questo circuito, ha avuto, ecco, i classici compagni di strada, Alessio Lega. Mi sembra che Lega è venuto a suonare anche all'asilo, questo è un cantatore anarchico. E lui fece contribuire a determinare il nuovo canzoniere milanese, così come il canzoniere, diciamo, come devo dire, fu quello che cominciò a lanciare, a portare avanti il problema dei canzonieri, no? Che poi magari, ecco, abbiamo il canzoniere del Lazio, il canzoniere veneto, i cantori di Orgosolo, Pino Masi, che poi concluderemo proprio con Pino Masi, così come devo dire i canzonieri, ecco, come gli Zezzi, a cui diciamo il nostro referente, come i nostri referenti però erano le Nacchere Rosse, che erano più vicini ai movimenti, mentre le Nacchere Rosse e gli Zezzi erano più vicini al Partito Comunista. Vabbè, queste sono cose, però erano anche interessanti. Noi a Salerno abbiamo fatto venire tutte e due, sia le Nacchere Rosse quando presidiavamo l'ospedale Giovanni da Procida, che lo volevano chiudere perché De Luca, sempre lui, De Luca e Berlusconi, De Luca voleva dare e chiudere l'ospedale da Procida per darla a Berlusconi, che ci voleva fare un albergo, perché dove sta l'ospedale da Procida è una bellissima area verde che si vede tutta Salerno, il mare e via dicendo. Sto gran vigliano mio, non aveva combinato una. Diciamo, è poverino, nel giugno, il 14 giugno 2009 è morto. E questo, Ivan Della Meia era, come devo dire, ecco, la classica, cioè l'infanzia nell'orfanotrofio, l'incontro con la famiglia, le liti con i genitori e gli anni trascorsi in strada, perché prima la strada era la nostra scuola, è la scuola della musica, la scuola del teatro, la scuola della pittura, così come era anche la scuola rivoluzionaria, la fabbrica e i rumori delle catene di montaggio, gli operai ebbero la capacità di trasformarli in musica e di rivolta. Ora passiamo a sentire Ivan Della Meia. Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà. Se invece vince perché i cromeri gli danno la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, noi si chiamava i compagni alla lotta. Ecco il padrone facendo una massa, dopo l'altro cominciano a entrar. Oh cara moglie, dovevi vederli venire avanti, curvati e piegati, e noi gridare, promere vento te, e loro tremiti senza guardar. Che poveretti facevano pietà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la Guardate, a distanza di tantissimi anni è sempre emozionante sentire l'artigianalità e la carica che stava all'interno di queste canzoni, una carica che suonava alla rivolta, che incitava a prendere coscienza, e che O cara moglie era un altro dei pezzi che coinvolgeva emotivamente tutte le varie fasce di età di quei movimenti, quindi, ed è una cosa importante. Ora passiamo a Claudio Lolli. Claudio Lolli è morto il 17 agosto 2018. Che Claudio Lolli era un intimista, insomma, no? Uno che poneva un concetto esistenziale della vita, anche nella ribellione. Però è chiaro che Claudio Lolli, a suo modo, si fece portavoce della protesta generale e giovanile. Lui voleva la capacità di trasformare in canzoni la malinconia del vivere, quotidiano, per dire, lui con Uomo in crisi, che in questa canzone conteneva anche un brano dedicato ad Antonio Gramsci. Quello lì è un'altra canzone che era un inno antimilitarista, come Morire di leva. Le canzoni, il suo stile riusciva a trasformare la malinconia in rabbia, ed era anche una testimonianza, così come anche ho visto anche degli Zingari Felici, poi lui nel 75 aprì il concerto di Canzoni di rabbia, e con quel concerto Lolli si liberò definitivamente dell'etichetta di cantautore triste, eccetera. Appunto, come dicevo prima, ho visto anche degli Zingari Felici, esprimeva la drammaticità stava dietro tutta quell'umanità che aveva fatto politica di compagni e compagni che hanno fatto la scelta della lotta armata. le stragi, era, come devo dire, Zingaretti Felice, gli emarginati, il femminismo, cioè c'era in questo degli Zingari Felici, c'era un po' di tutto di quel che in quel periodo, diciamo, come devo dire, si sviluppava, così come la questione degli Zingari erano le ansie di una generazione alle prese con l'utopia della rivoluzione, e Lolli, ecco, gli dà anche un prezzo politico al disco, che poi venne così come che è, diciamo, nella vendita, insomma, come dire, quindi ecco, anche Claudio Lolli non è da dimenticare, anzi, ecco, noi abbiamo, fino ad ora abbiamo avuto due cantanti di conflitto reale, materiale, cioè quando uno ha sentito queste due canzoni, insomma, da Contessa o Caramoglie, sentiva il rumore delle fabbriche, il rumore dei picchetti, il rumore che si trasformava in rabbia e musica. Con, diciamo, Claudio Lolli invece abbiamo le riflessioni, le ansie, l'esistenzialità, ciò che è, diciamo, i compagni esistenzialmente, collettivamente e individualmente vivevano magari in quei giorni piovosi, prima di un corteo, prima di uno sciopero, in seguito a degli eventi tragici, eccetera, quindi delle stragi, eccetera, eccetera. Quindi ecco perché, come devo dire, ricordarci queste canzoni insieme a questi compagni, mo, ecco, per dire, ricordarsi di Paolo Pietrangeli ce lo dobbiamo ricordare per Contessa, non per quanto con Maurizio Costanzo collaborava, anche perché era un periodo in cui ecco, molto ma molto diciamo strano, perché diciamo in quel periodo diciamo il berlusconismo voleva avere la capacità di sussumere le migliori intelligenze culturali in un discorso di, come devo dire, di carattere di profitto di guadagno, e per poter legittimare il suo senso di libertà. Però ciò non, poi è chiaro, Pietrangeli è passata a Rifondazione Comunista, ha avuto i suoi percorsi, non è, però ricordiamoci che voi non voi, Paolo Pietrangeli, come Ivan Della Mea, ha dato un grande contributo diciamo, per il conflitto e per un movimento di opposizione politica reale in Italia. Ora sentiamo Claudio Lolli. Senza più salde certezze, come cerca con le mani sempre nuove sicurezze. Hai notato com'è facile sentirselo un po' amico quando, con aspetto gracile, con gesto antico, si avvicina alla tua anima, cerca in te i suoi dubbi, poi con fare indifferente fugge vinto dall'orgoglio, fino a che non riconosce i suoi timidi sorrisi sul tuo volto stralunato in perenne crisi.

vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce, perché la notte vince sempre sul giorno e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre più ragazzina, si fa correre dietro lungo strade senza uscita. È vero che non riusciamo a parlare, e che parliamo sempre troppo. È vero, sputiamo per terra quando vediamo passare un gobbo, un 13 o un ubriaco, o quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate. È vero che i poeti ci fanno paura, perché i poeti accarezzano troppo le gobbe, amano l'odore delle armi, odiano... Allora, ci dispiace di sfumare anche questa canzone, però, come devo dire, le canzoni di Claudio Colli, cioè, è anche un ricordo, perché chi è interessato a seguirle, è chiaro, se li può procurare queste canzoni. E abbiamo sfumato con le Zingari Felici, proprio come abbiamo detto prima, perché in nome dell'amore si fanno anche delle scelte politiche che uno mette a, come devo dire, mettere a pentaglio la propria vita per un futuro migliore, anche facendo delle scelte politiche e modi di affrontare, di confrontarsi con il potere, scontrarsi, confrontarsi con il potere capitalista. Ora passiamo a Pino Masi. Ecco Pino Masi, perché chiudiamo con lui, che è ancora in vita. Pino Masi. Pino Masi, ecco, è il cantastorio italiano che, come devo dire, la sua vita è legata all'organizzazione, al movimento politico Lotta Continua. Infatti la canzone di Lotta Continua, diciamone, è un esempio. Lui, diciamo, è un, come devo dire, oltre l'attività, come devo dire, musicale da cantastorie, diciamo, era anche un pittore e scriveva, ha collaborato con Fabrizio De André, infatti lui ha contribuito all'organizzazione del suo primo concerto con Pierpaolo Pasolini, con Dario Fo, Demetrio Stratos. Ecco, lui era, come devo dire, ecco, il meridionale. Lui nasce in Sicilia da padre pisano e madre siciliana, e diciamo lui ha vissuto anche in un modo molto conflittuale anche la vita di Lotta Continua. Lui esce da Lotta Continua e dai Circolo Ottobre nel finire del 75. Lui accusò, come devo dire, Adriano Sofri, ecco, quando il pesce è marcio puzza dalla testa, per denunciare l'ingloriosa fine del movimento del 68 con queste scelte, con le scelte politiche di Lotta Continua, che è un po' poi quello che è successo nel 75, tra il 75 e il 76, con Avanguardia Operaia, con, diciamo, qualcuno chiama l'Agile Mancussa, ma io la definirei l'infido serpentello, che, come devo dire, i cui guai ancora oggi le verifichiamo in termini politici con i vari contenitori come Rifondazione Comunista e quant'altro. Però ecco, non distruggiamo sto pathos che sta dietro queste canzoni e compagnia varia. E lui è chiaro che ha fatto le canzoni, la ballata di Pinelli, lui fece la canzone per i proletari in divisa, alla canzone Compagno Saltarelli noi ti vendicheremo, sull'Internazionale Proletaria, Liberare tutti, che è un'altra canzone, anche questo diciamo era quella canzone che noi cantavamo quando restavano i compagni e facevamo i presidi davanti alle carceri. Prendiamoci la città, la ballata di Franco Serrantini, un compagno anarchico morto a Pisa, ucciso dalla polizia, ecco, morto nel carcere di diciamo morto a Pisa a causa delle cariche della polizia. Quindi allora ecco, noi ecco ora mettiamo queste canzoni, le mettiamo l'uno dopo l'altro perché raccontano proprio ciò che, come devo dire, questi compagni, diciamo. Fortunatamente lui ancora vive, ancora milita, ancora fa parte, diciamo, continua la sua opera culturale. Lui è Lotta Condina, ricordiamo una cosa. Lotta Condina è, diciamo, era quel movimento politico di opposizione rivoluzionaria che, diciamo, prese breccia a livello nazionale, insomma, quindi da Milano fino alla Sicilia, così come anche all'epoca le forze politiche marxiste e leniniste avevano un raggio che, come devo dire, prendeva un raggio d'azione politica che coinvolgeva la penisola, l'intera penisola, mentre altre organizzazioni erano molto più radicate nelle cinture operaie proletarie. E per dire, Lotta Condina, ecco, a Napoli era la mensa dei bambini poveri, cioè tutti si ricordavano Lotta Condina, perché Lotta Condina è un simbolo di ribellione che pigliava a 360 gradi, e il pugno di Lotta Condina fu il simbolo molto più riconosciuto e conosciuto in tutta Italia. Vabbè, lasciamo la parola alla musica. Braccianti e gente dei quartieri, siamo studenti, pastori sardi, divisi fino a ieri. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. L'unica cosa finita, lotta, lotta di lunga durata, lotta di uomo armata, lotta continua sarà, una lotta dura senza paura per la rivoluzione. Non può esistere la vera pace vivrà un padrone. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta. Quella sera Milano era caldo, calabresi nervoso fumava, Lograno brinco la finestra, ad un tratto Minelli incastò. Sono questore, io ce l'ho già detto, le ripeto che sono innocente, Anarchia non vuol dire bombe, ma giustizia nella libertà. Poche storie, confessa Pinelli, c'è Malpreda che ha già parlato. L'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto. È l'autore di questo delitto, tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriamo la finestra, quattro piani sono duri da fare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. È bastato aprire la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. L'hanno ucciso perché era un compagno, non importa se era innocente. Era anarchico e questo ci basta, disse Guida il fascista questo. Calabresi e tu grida assassini, se un compagno ci avete ammazzato, questa lotta non avete fermato, la vendetta più dura sarà. C'è una bara e 3.000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, noi quel giorno abbiamo giurato, non finisce di certo così. Quella sera a Milano era caldo, che caldo faceva. È bastato aprire la finestra, una spinta e Pinelli cascò. Tanti compagni di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati. Però son fianco a fianco con altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari. Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto liberare tutti. Vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori, insieme ai padroni, noi li faremo fuori, porci padroni. Voi vi siete illusi, non bastano le galere per tenerci chiusi. Facciam vedere ai nostri sfruttatori che per ognuno dentro mille lottano fuori. Siamo tutti delinquenti solo per il padrone, siamo tutti compagni per la rivoluzione. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni, noi li faremo. Allora, ci dispiace, con i compagni sfumiamo anche questa canzone. È chiaro che ci stanno tante altre canzoni per dire come la violenza. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti. Questa era la canzone che noi la cantavamo quando eravamo noi a decidere a scontrarci. Vabbè, lasciamo perdere, intanto era importante ricordare questa canzone. E poi finiamo ora con la ballata di Franco Serandini, dedicati come Saltarelli, come Varalle, come Zibecco, come tutti i compagni che sono stati uccisi dalla violenza di Stato. Un abbraccio, a dopo. Ciao, buonasera, alla prossima iniziativa. E i primi risultati, giungon dalle prigioni, c'era un compagno crepato là, era 20 anni la sua età, c'era un compagno crepato là. Era 20 anni la sua età, solo 2 giorni prima parlava Nicolai, Franco era coi compagni, decisi più che mai, cascasse il mondo sulla città. L'assassino non parlerà, cascasse il mondo sulla città. Quell'assassino non parlerà, l'avevano arrestato.